sì, anche Trapiatello, lo so, tra i più bravi qua in Sardegna. Io c'ho un amico, un ragazzo, che quello lì che quando l'ho visto sparare non ci potevo credere, mi ha fatto sparare con la pistola e ho visto quello che faceva lui. Questo è tra i primi tre in Sardegna, a livello nazionale sarà tra i primi dieci, così così, giovane, mica. Quando l'ho visto sparare, cioè, quando mi diceva, lo vedi quella roba lì 50 metri, ho detto, vai che non ci credo che lo prendi, che lo prendeva degli oggetti a 50 metri con la pistola. Io dicevo, come cavolo fai con una mano? A me mi ha fatto sparare, ma nemmeno nella direzione sparavi, ma li passavi a 3 metri lontano, così, pum, una mira allucinante. Andate al tiro a segno che c'è alla strada dei due mari, lì, andando a Campanella. No, no, non eravamo, eravamo in strada, al mare, eravamo. Si può sparare al mare, dice, ma... No, ma usano dei proiettili, dei pallini, sono, non mica sparano proiettili veri, sono delle armi che hanno dei pallini sottili, non so, non c'hanno niente a che vedere con le armi che si utilizzano, io poi le temo le armi. Con la 22 lui biglia, prova a sparare con la mia, per subire. Oh, pallini piccolini piccolini, cacchio, che vabbè, non dico che se ti prendono la faccia già ti fanno male, ma ammazzati nemmeno ti ammazzi. Vedi, io ad esempio, il campione, siamo in famiglia, ed è un campione, perché è realmente un campione, solo che pratica uno sport poco conosciuto. Io sto parlando del sollevamento pesi, io ho un nipote che è campione d'Europa di sollevamento pesi, per dire, è campione italiano, è anche primatista italiano nella sua categoria dei 60 kg, dei 71 kg, una cosa del genere. Però è uno sport naturalmente poco conosciuto, o meglio, abbastanza popolare, però poco seguito dalla gente. Perché? Perché ci sono degli sport come ad esempio il calcio, come il ciclismo, eccetera, anche altri sport che non fanno altro che offuscare la bellezza di altri sport meno forse appariscenti, non lo so. Capito Roberto? Io sto parlando di Davide Ruio, è campione d'Europa dei 61 kg, della categoria 61 kg, ed è primatista italiano anche, con 155 kg nello slancio, di alzata nello slancio, e ha appena 18 anni, appena compiuti, per dire, questo è un futuro campione. E infatti è stato subito è arruolato all'esercito, e lei adesso lo stipendiato e lavora lì per l'esercito, ed è pagato, perché lui ormai è stipendiato dall'esercito. Vai, io non lo so, complimenti allora, no, non lo conosco. Sono quelli sport poveri, anche Agrusti, il figlio di un amico mio, di Alberto, adesso non mi ricordo come si chiama, subito non so se hanno preso la polizia, cioè i carabinieri o la finanza, forse le fiamme gialle l'hanno preso, sì, subito per andare alle Olimpiadi, questo ha fatto, non le Olimpiadi no, doveva andare, non sono state fatte i campionati europei, ha fatto i campionati mondiali, pare che è arrivato tra i primi, non so se fa la marcia lui, a livello italiano forse è il più forte che c'è, è giovane, lo stesso ci avrà 18-19 anni questo ragazzo, no, forse ne ha di più, facciamo 20 anni. Anche mio nipote andrà sicuramente agli Olimpiadi, perché già gliel'avevano già detto, anche perché ha tutte le misure idonee per poter partecipare alle Olimpiadi, perché per poter partecipare alle Olimpiadi un atleta deve avere certi risultati, se non hai certi risultati non si può andare, perché deve avere i limiti di qualificazione. Lui ce li ha tranquillamente, solo che adesso le Olimpiadi sono state rimandate al prossimo anno e poi si vedrà. Se lui continua a lavorare come sta lavorando, sicuramente diventa anche un grandissimo atleta. È arrivato anche ottavo ai campionati del mondo, e non è poco. Tu immaginati, un ragazzo di 18 anni, ed è appena in attività nemmeno 3 anni, che ha incominciato con Sassari, con una polisportiva sassarese a Sassari, e poi è stato chiamato lì alle collegiali, è stato in nazionale, e da lì ha avuto il grande lancio. Ed è, ripeto, campione d'Europa. Avanti Gianni. Anche Vittorio è stato molto bravo. Ai suoi tempi aveva molta forza nel pedale, era della Fausto Cuppi, e ha messo dei ritagli di giornale su internet e cose dove lui arrivava sempre primo classificato, anche sulla Nuova Sardegna lo metteva addirittura primo classificato, Vittorio eccetera eccetera, il cognome. È una bella soddisfazione, dai. Io credo, ma forse è il più grande sportivo che abbiamo avuto in Sardegna, non a Sassari. Già te lo ricorderai tu, Tonino Siddi, tu probabilmente l'hai conosciuto, Giulio. Giuseppe Santa, giorno di banca, razzava Angelo Mebradito. Dopo di strappo non si ne va via. Giulio, mi hai sentito? Sì, sì, ti ho sentito, beh certo. Tonino Siddi, anche quello, è stato un grande campione, è stato per Sassari, per la Sardegna tutta e anche per l'Italia. Perché addirittura, mi ricordo, aveva fatto campionati italiani dal bronzo, si può immaginare, e io lo so con la massima sicurezza perché io l'atletica leggera l'ho praticata per tanti anni, e Tonino Siddi aveva fatto la finale dei 100 metri e è entrato secondo, embriaco, per dire, no? Ma nel passato ce ne sono stati tanti altri, tipo ad esempio Gavino Matta, un pugile sassarese proprio, anche lui, un grande pugile, campione d'Italia più volte, eccetera, eccetera. Ce ne sono stati diversi, ce ne sono stati, che adesso mi sfuggono anche i nomi, non me ne ricordo più nemmeno. Però è così, d'altronde, essendo sport minore, la gente se ne dimentica, ecco qua il discorso. Vai Gianni. E a un buio dove c'era anche il signor Pio, di nascosto a fare full contact quando facevo karate. Il visore veniva, perché noi avevamo televisore con videoregistratore, e veniva a vedersi i filmati che facevano negli incontri per farlo vedere al suo pugile, che sicuramente conoscete tutti, per farlo vedere a lui quando doveva fare i combattimenti con questo qua, allora gli faceva vedere le pratiche che aveva questo, capito, e nei filmati, e venivano da lui praticamente a fargli vedere questi filmati qua. Oh, bianco per me, riprendo dopo. Va bene. Pugliere, stai parlando di Pugliere. Pugliere chi? Di Giuseppino Pugliere, Gianni. Quello che porta il carattrice, non lo so come si chiama. Giuseppino Pugliere, anche quello è mio parente. Dunque, Giuseppino Pugliere, quando era giovane, anche lui è stato un grande Pugliere, perché no? Ma ce ne sono tanti altri, tanti sassaresi che avevano le qualità per emergere proprio, per essere all'apice, diciamo così, della popolarità, solo che essendo in Sardegna noi siamo limitati in tutto e per tutto, già, non c'è niente da fare. Noi avevamo nella critica leggera, negli anni che corre buio, c'era un certo Gavino Donuprio, quello lì è stato chiamato alle Olimpiadi di Roma, è stato chiamato quando, nel 60, quando c'era le Olimpiadi a Roma. Beh, non si è potuto andare perché la società non aveva i mezzi per sostenerlo, cose d'altro mondo. Gabino Donuccio, per la cronaca, è uno che lavorava quella gruppa che abbatte le case, che fa le fondazioni, eccetera, per dire, tutto il giorno, 10 ore seduto sulla macchina facendo fossi e demolendo di tutto, e poi si allenava. E beh, ti dirò che Gabino Donuccio addirittura in una gara a 2 chilometri dal traguardo, un grossissimo vantaggio addirittura su Adon Pamici, che sappiamo benissimo che Adon Pamici è stato come campione. A un certo punto aveva le scarpe troppo corte, piccole, poca valore, le sono uscite tutte e due, unghie dei piedi, e a quel punto lì l'ha raggiunto Pamici e l'ha battuto. Però Gabriele Lucchio era veramente un grande marciatore, Gianni. Stanno mettendo la porta. Vabbè, lasciamogli la mettere, che se ne frega. Per dirtelo come la situazione. Pensa che per Rio de Luffy poteva andare in piedi, io non ci è andato, proprio perché? Perché non aveva soldi e la società per mandarlo, per sostenerlo lì alle Olimpiadi, perché non è semplice, ci vogliono un sacco di soldi, ci vogliono. Dipende anche dalla società dove uno è affiliato, tante cose, insomma. Avanti la tariffa. Yeah, anche i cibalezzi di Rudisendi, dove c'era signor Ruglio e Massa, andavamo noi, signor Pio voglio dire, andavamo noi a fare full contact, quando facevo karate andavo a fare full contact di nascosto nella palestra e pugilato, appunto che io l'ho conosciuto, quello che portò il karate, a quei tempi lì che andavo. Io era campione pesi leggeri. Sì, ma era una macchinetta a cudenti però. Lo so, era bravo. Come che non l'ha voluto fare quanti, no? Pizzinoso, voi si tratta di burribili, si tratta di sorridere buntisi, li bugnisi. Ogni amare di venga, ma aveva fatto a me, fa quelli bugnisuro. Beh, era una macchinetta, era. Il signor Pieppo così incazzava, a chi li faceva i risacchi, gatto, con i piedi non si picchiano i sacchi, se non li spacchi, ci vogliono quelli proprio per fare full contact, se no li vedi che si è pugilato, li facci che sono diversi. Quelli si combattono con i guantoni, là. Noi li prendevamo anche a calcio oltre che a pugni, è per quello che li rompevamo. E poi così incazzava, infatti li hanno tutti insiruttati che si sacchi. Bei tempi. E giovani eravamo, la testa ci fumava. E Angelo non era da Peppino Ottanti, Angelo mio fratello. Quindi lo conosce bene a Peppino Ottanti, faceva alzate di potenza Angelo. Era pesista. E ti dirò di più. Peppino Ottanti è nato con il telefono, scusate. Angelo non era bravo a chi pesista. 160 kg solo di banca alzava, figurati di strappo. Da 160 kg ne alzati. Ma di banca, di strappo chissà quanto ne saliva. L'ho visto io gareggiare, mio fratello era un demonio. Quel Peppino Ottanti era proprio veramente. Io me lo ricordo che Angelo ce l'aveva anche a casa alla palestra. E infatti, si allenava anche a casa dopo, perché Angelo si stufava andare in palestra. Signor Peppino Ruguria aveva vero, perché vedeva che aveva una busta Angelo mostruosa, oltre che era allenato giustamente, perché per alzare i pesi così bisogna avere allenamento. Vabbè, non ne sta più facendo adesso. No, non penso, no, va in mano Angelo, sa. Ma Angelo più grande di te era tali. No, più piccolo di me di 2 anni. Angelo più piccolo, va. Yeah. Vabbè, reale. No, non era bravo giocando a pallone Angelo. Mi dilla Roberto che era conosciuto, giocava proprio nella squadra da dentro. Dilla Roberto a vedere. Si riconosce Angelo mio fratello. E a mio cugino Natalino, Accenso. L'altro mio cugino, il fratello di Natalino, già li conosce Roberto, chi era? Roberto dove è andato? Si è sentato, a Giulio gli è squillato il telefono. E mi pare che io sarò, ci sentiamo dopo, vado a mangiare. E poi me ne vado a portare giù il cane, tanto che ce non vado. Oh yeah. Vado là. A non svidere, anzi, a non intendere. Via. Ciao già. Salutami anche a Giulio e a Roberto, quando entrano, che sto andando io, dai. Anche io fra un po' vado a mangiare. Se non entrano, si ritengano salutati. Ciao, ciao.